before I get to quanti seguici la radio usci. Sì, sì, lì. Ma tenere così la portante, no? Pensa che ho telefonato a Natalino, credendo che fosse lui che si era dimenticato il PTT premuto, magari col gomito. No, Natalino, mi sembra il segnale di Antonello, l'ho chiamato, non mi ha risposto. Ciao Claudio, avevo acceso tanto per vedere se c'era ancora l'antenna, ho visto un segnalone a 9.30 ed era tanti minuti con la portante premuta, detto, non sarà Natalino che poi, sai, con la pioggia al coso, magari stazionarie non eccellenti, rischia di surriscaldare il finale. Ho contattato anche Luca, ma non so se era lui. Boh, non so chi, penso che Antonello va a segnare quello. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, devo fare cose. Ciao Marco. Io adesso mi faccio il bagno. Ciao, ci sentiamo, ciao a tutti, ciao. Attenzione 10-10, c'è qualcuno, capa. E cosa c'hai? Buongiorno, mon amour. Oggi accordelli. Ah? Cosa stai accordando? No, niente. Non sono ancora fatto. Neanche io, servo. Il processore è scattato che ho 10 metri. Andabex. No, non stavo accordando niente. Ho lasciato tutto com'era. E anche io mi ho preso una tacchettina. L'ho preso corporale ieri, con il petto lungo, fa male tutte le gambe, cazzo, mamma mia, poi domani mattina c'è un sacco di cose da fare, lo accompagnare anche a fare una visita. Noia, casotto, ti sei ripreso? Cosa ti? Ho detto ti sei ripreso, ma male mi senti? No, assolutamente, sì, tranquillo, hai le musce. Sono tutto dolore, sì. Sono tutto dolore, non riesco a togliere i piedi, adesso ho detto mi dice l'aria, gli ho detto prendere l'appuntamento perché quanto se no ho via. Due casi di carrozzelle a me, sto aumentando la trite, capito? Sono troppo dolore, le gambe, le ginocchia, i gomiti, le braccia. Casotto. Così è. Beh, aspetta, vediamo se sale. Perché quando lo eccito più volte tende a salire, però ce ne va oggi, non ci vedo un cavolo. No, come ho tolto le barbe, le ho rimesse, è un po' più lento a salire, lo sai. Gli hai pulito con l'alcol, con la cremina, gli hai asciugato. Ah, non ho pulito niente, l'ho tolto e l'ho messo, aspetta. Dovevo accordare. Io sono tolto, provato gli altri, reinserito e non ho avuto pazienza, diciamo, di fare tutto ciò che mi è detto. Com'è il segnale così? Vedi un po'. Mi devi dire se i matti sono uguali, perché sto usando 140 adesso. Capito? Quanti matti sto usando? Come stamattina? Stamattina ho lavorato col 4.30. Sono uguali. E qualche proprio appena di meno di stamattina. 25 non ci arrivi, ma c'è di fretta di smitter sicuramente tra una radio e l'altra, capito? Però va bene lo stesso. Sì, vabbè, l'importante è che insomma non se ne scelgo, adesso vediamo poi. diciamo che sono gli stessi, dai. Ma quello è provare quello che mi aveva Antonello, se cambia la cosa. Tre piedi non ne ho, posso fare con l'alcol, vero? Ma i piedini stai dicendo? Quando togli le valvole, di solito le valvole si puliscono con la piedina o con un panno appena appena di alcol, si lucidano bene per togliere l'impurità che c'è sopra, secondo te è pulita, ma c'è un'impurità collosa, capito? Si puliscono bene e poi si ripiazzano. Sì, ma pulisci che cosa? I piedini o la valvola in sé? La valvola, non i piedini. La valvola, i piedini non devi spruzzare niente, non devi toccare niente, perché c'è una tensione allucinante. Quindi non devi toccare niente. E quando smonti le valvole fai scaricare la tensione. Vuol dire se devi pulire, la devi tenere staccato, l'amplificatore farle domani. Perché c'è tensione nelle mie piedini, quindi sta attento e ti batteneggia. Ah, vabbè, io l'ho staccato dopo 3 minuti l'ho tolto. Non toccate i piedini, però. Questo cioè non toccare i piedini. Che lì passa la tensione, capito? Non è sulla valvola la tensione, è lì dove tu incassi la valvola, lì c'è una tensione allucinante, quindi stai attento a tirare a che ti sono già la lecce. Ne ho visto, mamma mia. E comunque niente, tu non togli le valvole, le pulisci bene, le luci, le valvole. E niente, le lasci asciugare bene e poi le ripiazzi. Cosa che io non ho fatto, possibilmente si fa con la trilina, spruzzi un pulizieri di panno umido con la trilina, le prendi, luci, capito? E piano una per una, aspetti qualche minuto e poi le ripiazzi, capito? E vorrei che lavora anche meglio, scalda di meno. Secondo me non esco più adesso da qui, mi sono di sé. Lui è con la macchina da 6 metri, si è messo qua. Sono decentrato. No, devi metterli su, tutti sotto quei neri. In Africa è andato. L'aspetta il neri. di San Maurizio di Ligresia. Prima città, Jimmy. Oh, è la festa di San Maurizio oggi. È il 12° anniversario del mio matrimonio, K. E allora, auguri. Sì, la vice. Mamma mia. Vabbè. Dino. Buona. Beh, stai andando il capo? Sì, adesso sì, dai. Sentendo la differenza, sì. Via. No, questo è il 140, tu va bene? Sì, la voglia. E l'ho acceso, dai, per far funzionare anche a lui. Un pochino. Allora, no, io li accendo sempre tutti. Accendo tutti. 130, 140. L'altro che c'ho... attacca una bandierina lì, la lanterna di dietro, capite? Così saluti, prendi la mano, ciao, ciao, ciao. Una bandierina assata, no? Una bandierina americana, però. No, dove mette la bandierina della Lega? Siete andati a vomitare, sì. Sì, appena sono entrato nella scuola ho vomitato subito in terra. Ti pare io a 63 anni vado a buttare, cosa ha detto oggi di buttare? La gaggio di buttare. È un punto di domanda, eh. È un punto di domanda, però, vabbè. Lo so, è un punto di domanda, sì, però... No, non sono altro perché non sto bene, andate l'aria. Basta. No, io non mi sento bene. Però è tutte le ossa, non sono uscito per niente oggi. Poi, la sorella, sto iniziando a fare un po' di pulizia al computer. Adesso vado un attimino a salutare anche perché... Vado a salutare perché stanno andando via mia sorella e mio cognato. Mi allontano un attimino dalla radio e sentiamo dopo al caso, ecco. Ehi, saluta a tutti, dai, ci aggiorniamo dopo. Anch'io un attimino, aspetta che rispondo a questo. Che me ne sta succhiando la testa, poi c'è che sono gli altri, succhia i cervelli. Vabbè, ciao, salutalo. Ehi, a dopo. Ciao, Natà, a dopo. Che ti ripeto a volte mi metto a fare poi magari sotto dal forno, oggi va a 10 km la mandatore. Vai a controllare, vai, quello l'ho mangiato a pranzo, buona idea, ne voi battate al forno e quello al forno. Buono, buono, buono. Non si fosse per mangiare il porcetto, perché... no, e poi chi lo preparano è che c'è sempre tempo di stare via, capito? No, no, mi davano voglia, le davano troppo le fai, va bene. Poi c'è il condimento sia per il pollo, ce lo comprano quello per gli arrosti, e sia per le patate lo stesso, capito? Ma c'è infatti vado, inverto le teglie perché ce l'ho uno sotto e uno sopra. Volevo vedere chi è che sta cucinando prima, dammi 5 minuti. E poi anch'io tanto devo andare in baracca per andare un po' di birra che mi carico il frigo. Saluto a casa. Ehi a te, altrettanto, altrettanto. Tutti e due mi hanno detto saluta. Beh, vado a controllare a vedere se si mangia canotti. Corri, corri che si mangia, corri, a dopo, ciao. Ciao, un certo Francesco qua. Ecco mi qua. Natalino Coccomane. Natalino Coccomane. Ecco, eccomi, eccomi. Hai girato? Sì, no, non è ancora cotto. Sto aspettando che cucini il pollo per invertire le teglie, mettere il pollo sopra e patate sopra. Siamo ci bruciani. Veglia, dimmi una cosa, che io ho preferenza per il pollo, quindi ti faccio una domanda così, a bruciapelo. Che pollo prendi? Io lo prendo in macelleria. La mia macellaia di fiducia è quel pollo di spanti, buoni, ma buoni, prendo i fusi. Ho preso 8 cosce, è molto buono, penso siano polli buoni, allevamento, non lo so, non me ne intendo, però quando prendo un petto di pollo, ad esempio, quello dei supermercati è beige, diciamo la carne, rosa, quella che prendo io è gialla. Ultima scelta, io sempre quelli gialli, e i gialli sono ruspanti, sono secondo me sono più buoni. Sì, ma macellario mio lo stesso me lo dice, capito? Ci conosciamo una vita, da quando io sono venuto a vettare a Carbonate c'è sempre stata la macelleria lì, da questo, me lo dice. Sempre, ricorda, la differenza che tu vedi, quella che compra in supermercati è rosa, questi sono, è gialla, questi sono ruspanti, mangiano, capito, naturale. E fuggi me li fa lui, direttamente dal pollo li fa lui. Ho preso 8 e stanotte vediamo la sussa, anche se non è che mangia 6 anni, ho preso una tecchipina un po', ho migliorato, ma ti veramente gioco a pizzica. Secondo me qualche colpo d'aria, perché non ero così stamattina. Già può essere, io diciamo che di notte ne si è gonfiato un pochino l'occhio, però si c'è colpo d'aria, poi ho preso un collirio, ho fatto, insomma, già tutto vero. E io mi avevo essere giù, capito, vicino al fuoco, poi ci spostavamo, entravamo dentro, poi ci vamo. Capito, e quindi sono sbalzinandomi perché la temperatura che c'era davanti al fuoco era alta, poi c'era vento caldo, seduti lì fuori, sai, la birrettina, la cosa, ma ci ha fisicato perché era sabato, domenica, sabato sera ero tranquillo, stamattina un po' mi sono alzato tutto, butto mai. Dopo pranzo ero veramente a pezzi, ho preso un tachipirino, un po' mi è passato. No, anche a me, poi vabbè, sono rimasto un pochino più del dovuto a letto, giusto per riposarmi, perché ogni giorno sto andando il sì, 5 e mezza sì, quindi andare. Anch'io, 5 e mezza lo stesso, sembrano 20 tutti i santi giorni perché l'aria si alza ai 5 e mezza. Io mi sono preso lì a preparare la colazione, mentre lei si veste, insomma si prepara. Insomma, perde un sacco di tempo, lei 7:20, 6 e mezza sta uscendo, capito? Alle 7 deve aprire il bar, si deve preparare il bar, si deve preparare tutto. Certo. Io e me stavo guardando un po' di foto di quando abbiamo fatto il colore del pavimento da WikiWiki. Ah, lì su Celeste, quello che ha negozienti. Ma tu sotto nella nuvola spettacolare, il letto da fuori. Lui, per carità, poco spendi, poco spandi, Sì, ma a prescindere che poteva anche andare bene. Ma cazzo, sai che ci sono le macchine vecchie che perdono olio? È un coso d'olio, che ha tutto il giornale in terra per assorbire l'olio. Quella ci vuole tutto lavato con la pulivapo, tutto lo pulito e rifatto. No, claro, non è così, no. Allora, quel prodotto lì è un prodotto inadeguato, è un prodotto che purtroppo gli è stato detto, però, sinché è bello, fa figura, però non è così, perché sennò ci vuole una tinta a base di resina, è protetta pure, quella è una lavabile con un protettivo sopra di, come te lo posso definire, tipo vetro, capito? È un liquido trasparente che vetrifica, però ha paura dell'acqua, quindi cosa succede quando c'è una perdita di acqua? Lui se l'assorbe, si allarga qua come la macchina dell'olio e praticamente va a finire che te la mottuglie. E quando tu lavi una macchina, la entri dentro, ne asciutta bene, ce la metti dentro, da come sono bagnate, fa tipo un foglio di carta, e prende, si attacca e se lo togli via. È comunque un prodotto che non va bene a fare quella lavorazione lì, capito? Io gliel'ho detto mille volte anche in officina, però c'è un risparmio notevole, perché facendolo bene spendevi circa dei 20-22.000 euro, ok? E qua hai speso qualche barato di tinta. Ma poi c'è la protezione pavimentale lì, sicuramente, io mi stavo dicendo tempo fa. Ma pavimentare non neanche conviene. Con quelle macchine per lavare i pavimenti, con la spazzola che è graffia, è tolto tutto, ho riportato lo stato naturale e poi dato un buon aggrappante con la resina particolare, capito? E Mario c'era quella macchina, c'era Mario, lui la macchina che pulisce pavimenti di officina, loro le facevano, capito? Facevano, già le fanno ancora, se lo chiamano, c'è sempre impresa di pulizia la mamma, che ha pagato, aspetta da controllare lo smante, se no mi si brucia. Sì, c'è anche il vaffaro, ancora ne ha due o tre, quello. Ehi, buttate lì, i punti sono già, li ho visti. Vai, mi guardo due foto, sono qua al PC. Ehi, vai su curazetta.com, guarda che stiamo iniziando a aprire la pagina, non è nulla a me. Ci sono quattro radio, vai a vedere se ti dà indirizzo, se ti dà tutto, di SV o di FB. Guarda, clicca su QRZ a vedere se ti apre qualcosa, che stiamo impostando di nuovo tutto. Aspetta che poi aspetta, QRZ.com. Sì, apri la pagina QRZ.com, un altro digiti in un attimo a sinistra, di SV o di FB, e ti dovrebbe aprire la mia pagina, dimmi cosa vuoi. Attento, Germano, si scucci dal nord della Sardegna, la nord della Sardegna che ti chiama Breco. Eccomi qua, Muccolo. Veglia, sono qua, sto volando. Come dicono, ma questa è la foto attuale che hai? Sì, c'è solo questi due ripianti, 920, la linea 430 che non è completa, dovrebbe andare sotto al momento in cui tolgo il 140. Quindi non può divisere, poi devo mettere l'altra, che al fianco fatto non ce n'è, che c'è la linea 757, e poi devo rimettere il dazio, devo rimettere l'altra e devo completare T. Sto facendo fare il piano, la L, perché quell'altra era troppo lunga, quindi la sto facendo modificare, capito? E poi faccio la foto completa di tutta la sala radio vera e propria, quello giusto per mettere qualche foto. Quella era quella che hai preso da quello che purtroppo se ne andò. Quale? Cos'è quella? Come si chiama? Non si vede. Non si vede? Non si fonde lì la qualcosa, ma il 430 è 340. No, la direzione di su, quella nera, la direzione di su, quella c'è a sinistra. Sì, sì, sì, l'effettino per 20, sì. Bella quella. Bella sì, io ce l'avevo uguale, precisa identica, sì, sì, sì. Stata una lotta, che c'era un sacco di gente prenotata, però il fratello e la sorella mi conoscevano, io ero sempre con lui, andavo a prenderlo, uscivamo assieme in moto, mi divertivo tantissimo e quindi hanno preferito darla a me, capite? L'ho pagata come ho detto io, perché loro volevano praticamente quasi regalarmela, no, questa è valutata così, tu ti prendi questi soldi, proprio non ho voluto speculare niente perché poverino va, mi è piaciuto tantissimo. Va bene. È così, pazienza, purtroppo. È così. E niente, poi c'è la linea standard e i neoli radio, ti devo trovare molto dentro l'armadio, asciugare. C'è tutta roba, c'è la carbonanza, a parte il vintage che ho dato, ne ho tenuto solo tre. E basta, però adesso lo sto facendo, Andrea mi sta a fare, sta progettando l'altro piano L da collegare a questo che ho, con sotto le piastre, ma non si vede niente, i due piedi si vedono solo uguali a questi, e faccio la L come la prima, un po' più piccola, perché lo spazio è questo ridotto, quella là è la più grande della stanza, capito? Eia. Vabbè, comunque, cosa vuol dire, aspetta un attimino. Vabbè, c'è solo questo poco qua, però non c'è altro. No, vabbè, in fase di allestimento ci vanno tutte le i diplomi, le cartine, ci vanno un sacco di cose, altre foto. E beh, va completato. L'ha iniziato ieri, Andrea. Ah, esce a vedere. Vediamo un attimino. Va. Sì, non c'è altro. Vabbè, ma anche... vecchia da mettere, ma non la trovo più, sono andato a vedere nell'archivio per il telefonino. Beh, non per Facebook, non so. E sabato noi quando scendiamo dall'alto, scendo giù, mi siedo da una parte, capito? Non dove trasmette lui, l'altra parte, mi siedo lì e la faccio lì la foto. Ah, ho capito. Sì, andiamo guarda. E abbiamo fatto. Perché quella parte lì lui non ce l'ha, capito? E se non chiede mai uscire nella foto a 6, giusto per avere l'iscrizione, il nome attivo quando fai qualche due chiacchiere in 40 metri, in 20 metri, dai. È meglio che sappiano che ci sei, se no pari un pirata. Sì. Andare. Adesso c'ho Pippo, mi tengo detto. già tanto vestita, lo sai, anche io guarda. Non c'è l'allevamento dei mosci, c'è il Carlino, c'è il bulldog inglese, il bulldog francese, non è? Quando vuoi, dimmelo. Infatti non sapevo neanche che c'era l'allevamento, se no l'avrei fatto saltare a Filippo Pollino, che non si è fatto manco una trombata. Capito? Perché l'avevo portato osci, c'era una femmina, ma era troppo bassa e troppo piccola. Lui è un fuori Italia, lui è enorme, grande, ma non canta un buio, se lo vedi. Lui è ecco perché è molto più robusto, soffre meno il caldo, respira benissimo, non ce la fanno che hanno i bulldog inglesi che quando respirano russano. No, lui no, lui russa quando è drumito, quando è drumito è russa. Russa è trudiegia. A chi lo dici? Da fa idem, quindi questo qua. Sì, ma la razza è così, non è che devi preoccupare, no? Il primo periodo mi preoccupavo, avevo chiamato perché l'aveva portato Mario, aveva comprato Mario l'aria, mi ha detto ma la cane mi ha regalato, mi sono sapere mi giusta, è sempre così, è così, non si preoccupi, però è un cane molto, molto tranquillo, sereno. Quando sente rumori parte al cancello, però se conosce ti fa le feste, se non ti conosce allora io ci vado io, capito? Siamo più ci piace le piedi. E vabbè, io già ti faccio, non so, ci vediamo. Quando muore questo decideremo che cane prendere. Decideremo, deciderà la padrona, cosa vuole fare per me. Per me io manco ne avrei preso più perché mangio più grano. Il sacrificio che ho fatto con questo cane, farlo grande a Carmonati, sì. Cartoneria, per intemperie, piovendo di tutto, e uscivo. Adesso invece qua lui è molto più indipendente, capito? Lo so, quando adesso è anche una liberazione per te, non è che, cioè, voglio dire, non devi portarlo giù a fare i bisogni, lui esce, lo fa, è già tante cose, Sì, sono venato, sì. Lui esce tranquillo la mattina, fa la pipì, faccio i bisogni, poi io pulisco, però ma fai buba. Adesso prima guardavo, mi che piovendo, sai dove vado con questo cane. Allora cercavo di portarlo sotto i portici, però non faceva all'interno del condominio, capito? E se ti vedevano ti rompevano le balle. Allora mi bagnavo, poi quando arrivavo a casa asciugava lui col fronte, sto facendo un lavoro prima di entrare, rotto le discotte, si pulire le zampe, asciugarlo, guarda, lascia perdere. I sacrifici che abbiamo fatto con questo cane, ma no, adesso anche lui è rinato, lui conosce solo e va sicuri che ha fatto un pezzo di prato finto, perché capito, se no mi casino tutto. E lui si corica lì al sole, si drome, si russa anche, a volte lo chiamo per mangiare, e manco ci viene, capito? E Renato. Quando c'è freddo invece tentenna un po', si esce, sta un pochino, però via, subito a dentro. Non è matto il grano, non è lo so. Adesso questo qua al viso deve stare qua, però a dormire va fuori, non è che rimane qua dentro. Lo so, tu non eri abituato a piccolo, questo a piccolo è abituato a dormire con noi, dorme a fianco a me, capito? Dorme a fianco a me, quando spegniamo tutto nel salone, lui sta sempre con i cattoli sotto la TV, vicino al salotto dove siamo noi, quando spegniamo tutto, io le prendo il suo materassino, perché l'ho già cambiato, piaceva la brandina, Stiva, se l'ho già messo il materassino, e lo porto, lo metto a fianco al mio letto, e lo drome, ma sì, è un cane, guarda che io esco presto la mattina mia, io esco alle 8, 8 e un quarto, vado anche nel caffè 7 e poi rientro, quando rientro vedo ancora dormito, ma ti sto parlando alle 9 e mezza, 10, a volte anche alle 11, Questo ufo. No, tocco, vai pure a fare pipì, vai, ma Androne non c'è altro. La baita si gira la cavalla. Filippo. Filippo. L'ho chiamato poco fa. Ma è sempre bucato. Poi c'era il formaceto, sai come ha fatto un po' di terrore, a Roma. Oh, domani ce ne invece. Ah, no, no, io adesso mi devo dare, non devo andare ancora a mangiare perché è abituato a mangiare di notte, capito? Quindi più tardi glielo do, così almeno ha un po' di tempo per digerire e addormentarsi. No, no, di notte mia non mangia, mia mangia solo a pranzo. Mangia solo a pranzo. Gli ho preparato di lì quella roba là. Il salsiccio mai noi. E beh, cane morto che non sei già. No, invece, ciao, vabbè, ciao, sono io. Gli ho preparato quelle due cose, ho tagliato tutto a pezzettini, ho fatto la pasta, 300 grammi di pasta, la carne. Si è fatto il buco, si è fatto la manza, giù giù. Rimane di nuovo crocchette di pesce. No, io ho crocchette di pollo e quelle di mango, ma non è sempre che le crocchette le gradisce, quando c'è per dire carne, preferisco la carne. Oh, il mio crocchette di pollo non ero perché aveva le matite. Stai attento. Se vedi che si gratta vuol dire che qualche chiazzetta ce l'ha. Assolutamente. Il veterinario non vuole. Crocchette di pesce o di manzo. Capito? Non di pollo no. Non ero. Non ero prima di bravo e mi sono uscite tutte le chiazze sotto il muso, si grattava, se lo faceva in sangue. Allora niente, adesso mangia solo crocchette di pesce. Prendo le trainer di pesce, io di Predaniella. E mangia quelle, per oggi una volta a settimana lui mangia la pasta bella abbondante e due volte a settimana la carne macinata di cavallo. No, io di cavallo non ne faccio, bueno, carne macinata normale, maiale e mando rischiato e gli faccio il riso e dici no, il riso mangia quando, quattro volte più del tuo. No, la mia mangia poco perché vomita, c'è lo stomaco piccolo, ha una digestione molto molto lenta e quindi sono abituato perché lo so, il tuo mangia la metà, è molto più mangione come cane. Ti mangiano, lui se sta già chiede, ti mette il muso, ma stai mangiando sempre a mania, cosa c'è? Ma prima di gustare un microfono di giallo e grattando i capo la parte, si mette a fianco a me e gratta la pancia. Andate back su, che paranoia, domani fa la recinzione. Sarà un casotto. Perché siete già pronti a fare la recinzione? Abbiamo già fatto 150 metri, adesso devo fare il piano per la seconda, per una tranche di altri 150 metri. Scavo, gettito e piattrini? Ho fatto lo scavo, già fatto, il gettito è già fatto, i pareti sono già ingrombati nel calcestruzzo, devo il cavo, il ferro è già teso tutto quanto, devo mettere solo le rette, però siccome c'è un pezzo che ha una bellezza particolare diversa dall'altro, allora voglio fare una fila di blocchi, gli tiro il piano e dopodiché vado con i blocchetti, poi vado con le rette. Sì, va benissimo così, va bene, siamo qui, non rimane tesa, capito, è brutta, anche la mia è così, addirittura il fil di ferro è sotto e poi è anche incrociato. Io ne ho messo tre di quelli in orizzontale, sia sotto, in mezzo che in alto, la base di 2 litri, e poi incrociato lo stesso, l'avete tirato con lo scavatore, e neanche il calcio di bancare c'era così tesa, ma è bravo, bel lavoro, e vabbè. Sì, in battesa così e cosa fai? Se non si gonfia non va bene, anche la mia è fatta così, anche la mia è tirata col minimo, tirata bella tesa, tutta bella stretta e man mano andando avanti col mini, se no a mano così viene brutto. Filippo, va te facendo, capito, è un casino. Vabbè, muscolo, dai, sono le 8:05, io vado nuovamente dall'altra parte, adesso mi spengo anche 9:20, spengo un po' tutto, lascio questa accesa, nel caso ci sente rotto, altrimenti fate la buona, buon tutto, buon inizio settimana, poi in settimana ci aggiorniamo e già ci vediamo, ok? Sì, va bene, dai, tanto che io adesso vado con la luce e poi mi farò proprio domani e tutte cose, ci aggiorniamo, ciao, ciao. Ciao, ti saluto a casa, ciao. Ehi, va tanto, ciao.